fatta di ansia, incubi, fatta di angosce, pensando a ciò che voglio, pensando a ciò che non posseggo, sguardo fitto al soffitto, voglio il mondo, lo voglio adesso, la giornata passa e voglio un rimedio per riempire queste tasche, per riempire questo stereo, rime che abbia la magia e portarti un mondo parallelo, fatto di alchimia e di luce, non un buco nero. Voglio i soldi delle vostre 24 ore, ma nessuno comprerà mai il mio onore. Nei secoli a venire, i miei pronipoti essere orgogliosi del cognome che portano, fotto nel cervello questi pensieri. Se non credi vieni, schiaccio i dispiaceri con le sneaker ai piedi, porto lividi nel corpo e sto in ginocchio. Se la legge è occhio per occhio, ma non zucchi e prendo fiato, fotto pure il fato, un lupo senza branco, nessuno più al lato. Tengo ai miei fra, ma li tengo dietro, vado martire, essere il colore che dà vita al nero. Ah, questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse con sogno, un po' di pace attorno, averne una parte un giorno. Questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse con sogno, tra un va bene, un vaffanculo, nella luce o nel buio. Questo testo è quello che voglio, vedermi vecchio mentre sfoglio pagine ed ogni immagine di ricordo, di ascoltare la stessa musica ogni giorno. Tu sai quello che voglio, prendo il respiro, scrivo, non basterà il foglio. Espiro, ma non aspiro a solo materiale, voglio dal mondo carta e penna per creare. Se un giorno potrò procreare, assicurare ai miei figli che sarò un vero padre, per loro trovo la madre che mi sappia amare, la sicurezza del loro, ma che non sia fondamentale essere immortale nei cuori in cui voglio stare, prima di lasciarvi potervi salutare. Vorrei sempre bene per i miei, poter contare che ci siano ancora quando sto male. Magari immortali, angeli senza ali, sempre poco fragili a un attacco infame. Amore, abbracciami e non mi lasciare. Se mi lasci sfascio un fabbisogno sentimentale. Ah, questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse con sogno, un po' di pace attorno, averne una parte un giorno. Questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse con sogno, tra un va bene, un vaffanculo, nella luce o nel buio. Questo testo è quello che voglio, vedermi vecchio mentre sfoglio pagine ed ogni immagine di ricordo, di ascoltare la stessa musica ogni giorno. Voglio andar lontano, seminare il mio seme, passaporto in mano, non avrete mai questa progenie, sterminare l'odio che mi preme, che mi tiene rancoroso, beve sangue mostro dalle mie vene. Fra, non mi avrete mai, se mai è il domani, non tifo per gli eroi che difendono gli infami. Clark Kent è morto, lo leggo sui giornali, non voglio essere un nome su sti fatti insani. In un mondo che cade si rialza in fretta, a prendermi una fetta di quello che mi spetta, dare tutto a nessuno, se nessuno siamo noi, abbiamo preso solamente calci in culo. Il sole cala e crea ombre troppo ambigue, voglio dare luce alla notte che i dubbi fa venire. Non mi vedrai né svanire né perire, uccidere il destino sordo ed è fine. Ah, questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse un sogno, un po' di pace attorno, averne una parte un giorno. Questo è ciò che voglio, tra ciò che fosse un sogno, tra un va bene, un vaffanculo, nella luce o nel buio. Questo testo è quello che voglio, vedermi vecchio mentre sfoglio pagine ed ogni immagine di ricordo, di ascoltare la stessa musica ogni giorno.